Abbiamo molto lavorato nel settore dell'applicazione di materiali innovativi e di tecnologie innovative, sia come materiali innovativi per quanto riguarda i compositi di fibre rinforzate in base a polimerica. Noi abbiamo sviluppato notevoli campagne sperimentali per il rinforzo di edifici in cemento armato con, in modo particolare, fibre di carbonio, ma anche per le murature con l'uso di fibre naturali, tipo fibre e fibre invece di tipo artificiale. E abbiamo inoltre utilizzato tecniche di tipo innovativo, quindi passando dai materiali alle tecniche, come dispositivi per l'isolamento sismico e per la dissipazione supplementare, e sono state sviluppate numerose prove sperimentali anche in tal caso con dispositivi ad attrito, dispositivi di tipo torsionale, e ovviamente non abbiamo trascurato gli aspetti di modellazione numerica di queste metodologie messe a punto e sperimentate. Quindi sperimentazione all'interno dell'università, poi ci sono state già delle applicazioni, dove, in quale tipo di edifici? Allora, per quanto riguarda le applicazioni in materiali compositi fibre rinforzate, abbiamo utilizzato queste tecniche per degli interventi fatti all'Aquila nel post-sisma. Dal punto di vista dell'uso di dispositivi di isolamento sismico, presso l'Università di Salerno in questo momento è in costruzione un nuovo lotto di residenze universitarie che sono state isolate alla base con isolatori tipo friction pendulum, più o meno quelli utilizzati per il progetto case all'Aquila. Mentre gli aspetti riguardanti i dispositivi di tipo torsionale sono solamente al momento in via di sperimentazione, non vi sono state delle applicazioni. Abbiamo in questo momento delle convenzioni con ditte che tra l'altro sono anche espositrici qui al MADE per sperimentazione di nuove tecnologie per l'uso di fibre d'acciaio e fibre naturale nel rinforzo e nell'adeguamento sismico di strutture in muratura anche di valenza monumentale.